Radio Onda Rossa ha dei costi di gestione di 30.000 euro annui e i consueti strumenti di autofinanziamento non bastano più. Per questo ha avviato una campagna di abbonamenti, il cui obiettivo minimo è di 1.000 abbonamenti, che significa per ognuno di essi 2,50 € al mese. Tutte le istruzioni le puoi trovare sull'home page del sito internet ondarossa.info. Tutta scena cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte, il giovedì alle ore 14. Tutte le informazioni, i podcast delle interviste e l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Con Vilma Labate, regista del film La ragazza ha volato, al cinema da giovedì 23 giugno 2022, ben trovata. Buonasera, ben trovati a voi. Raccontiamo per sommi capi la storia di questo film, di cosa si parla? È la storia di una adolescente, di una giovanissima ragazza, abbastanza solitaria, un po' rabbiosa e con un po' di dolore dentro, che vive in una città di confine, che è Trieste. E siccome Trieste è proprio una città di passaggio, e cioè una città che passa dall'Italia ai Balcani, dal nord prestigioso al passato prestigioso dell'Austria, dell'impero austro-ungarico, al mar Adriatico e all'Oriente, così mi è piaciuto raccontare la storia della protagonista, l'attrice si chiama Alma Noce, ambientata in una città di passaggio perché lei vive un'età di passaggio, che è l'età dell'adolescenza. Si chiama anche l'età ingrata e che tutti noi, per alcuni aspetti, ricordiamo con un certo dolore, un'età difficile. Come era nato il progetto? Un po' cerco sempre delle storie di donne, cerco sempre di raccontarle le donne, perché ritengo che non sono mai abbastanza raccontate, mai abbastanza, troppo poco. E questa storia qui mi ha appassionato perché c'è al centro una figura femminile a tutto tondo. Su cosa hai voluto concentrarti? Su cosa hai puntato l'attenzione? Beh, intanto sulla ricerca della protagonista. Avevo bisogno di una protagonista giovanissima e quindi per forza di cose acerba, però che fosse molto brava, che avesse del talento, e sono stata molto fortunata perché ho trovato una ragazza che mi ha dato moltissimo sul set. Anche se abbiamo fatto molte prove, ci siamo viste molte volte, ci siamo molto frequentate, abbiamo tanto lavorato anche prima del film, però devo dire che per quanto appunto fosse acerba, Alma ha vissuto il set con una disciplina e con una sensibilità e un grandissimo talento. Quindi forse il lavoro più importante di questo film credo che sia proprio il lavoro su di lei, sulla protagonista. Poi ho cercato e ho trovato un giovanissimo Luca Rumic, cui ho affidato un ruolo terribile, difficile, complicato, che naturalmente lui non aveva mai fatto, e anche in questo caso devo dire sono stata fortunata, perché lavorare con i giovanissimi può essere anche molto complicato. Nel mio caso è anche stato bellissimo, molto appassionante. Il terzo protagonista del film è proprio la città. È Trieste, che è una città secondo me poco conosciuta, abbastanza misteriosa per i più, non grande, però piena di identità, tra cui per esempio quelle balcaniche, che naturalmente ne hanno confuso giustamente la cultura e che sono arrivate in questa città diversa dalle altre con i loro conflitti, le loro religioni, la loro storia, la loro cultura. Poi volevo raccontare anche soprattutto una città di mare, una città pulita e diversa da Roma, quindi non metropoli, non sporca, senza il degrado consueto che si vede nelle periferie, e quindi un posto che avesse una storia completamente diversa e un aspetto completamente diverso. Che uscita sarà? Quante copie? Saranno una trentina di copie, non tante. È un distributore giovane, ma neanche tanto, Adler. Sarà un'uscita nazionale, quindi uscirò in tutte le città. Il periodo non è dei migliori, però ahimè non ci sono stati dei gran periodi in sala ultimamente, e di questo naturalmente mi dispiace moltissimo, perché io non riesco a concepire un cinema senza la sala. Credo che senza la sala il cinema non abbia più la vitalità che dovrebbe avere, e ritengo anche che in questo momento il cinema dovrebbe avere una fortissima vitalità e raccontare tutto quello che stiamo vivendo e la realtà ci regala in modo così convulso, così continuo, così sorprendente, e dovremmo poter fare molti film su quello che stiamo vivendo e poterli vedere tutti prima di tutto in sala. Il film La ragazza ha volato al cinema da giovedì 23 giugno 2022. Un saluto e un ringraziamento alla regista Vilma Labate. A presto, Vilma. A presto, grazie. Con la critica cinematografica Anna Maria Pasetti per presentare il film Elvis di Baz Luhrmann al cinema da mercoledì 22 giugno 2022. Ben trovata! Ben trovato, Fede, buongiorno all'ascoltatrice e agli ascoltatori. Eccomi qua. Che bene, storia allora racconta? Elvis non è il biopic di Elvis Presley nella maniera classica, del resto Baz Luhrmann, che non è uno stupido, era a conoscenza delle difficoltà di fare un lavoro sulla leggenda immortale del rock and roll e non solo, e quindi ha scelto di fare un lavoro sul dualismo, ovvero il punto di vista del racconto della vita, delle gesta, della parabola di Elvis, osservate dal punto di vista del suo agente storico, che fu Colonel Parker, il quale, personaggio modernissimo nella sua avidità, nella sua gelosia, nella sua volontà di strumentalizzare il talento, ne condiziona evidentemente le sorti, perché la storia, no, di Elvis, la biografia, vuole che Colonel Parker lo tenne in qualche modo prigioniero in un hotel a Las Vegas per esibirsi per un tot numero di anni, senza lasciarlo andare in una tournée nella quale il giovane Elvis avrebbe potuto esprimere al meglio, farsi vedere dal pubblico, che era un animale da palcoscenico evidentemente. Questo un po' inquadrando il tipo di racconto che Baz Luhrmann ha messo in scena. Il punto è che Baz Luhrmann intendeva, questo lo so perché l'ho sentito proprio dalle sue dichiarazioni, perché il film è stato presentato al Festival di Cannes fuori concorso, voleva costruire una sorta di tragedia shakespeariana, no? Attraverso lo sguardo dell'antagonista, l'antieroe sull'eroe, e quindi mettere in scena anche una rassegna di sentimenti umani che incorrono proprio nel meccanismo del dualismo, dell'opposizione. Qualcosa che per esempio aveva fatto Miloš Forman con Amadeus, no? Con sì. Salieri, che era il punto di osservazione del genio di Wolfgang Amadeus Mozart. Però è chiaro che Baz Luhrmann, per quanto un grande regista, scenografo della regia, mettiamola così, non ha la raffinatezza di Miloš Forman, per cui insomma Elvis sembra un'operazione riuscita più nelle intenzioni poi, almeno a mio avviso, che non nei risultati, per quanto sia un film molto lungo, supera le due ore, che riesce a intrattenere per tutto il tempo della sua narrazione, e questo è comunque un valore positivo. Sai, quando c'è sempre quel difficile equilibrio tra il cinema di intrattenimento e magari il cinema che vuole avere uno sguardo autoriale un po' più radicale, no? A volte si incorre in qualche cosa che non è né uno né l'altro. Comunque buona la performance di Tom Hanks, che è poi il vero protagonista, cioè Colonel Parker, un Tom Hanks piuttosto irriconoscibile, e anche del giovane protagonista che interpreta mimeticamente Elvis Presley, di cui adesso non ricordo il nome, ma non è un attore famosissimo, almeno non nel cinema, più che viene dal mondo televisivo, però è la sua performance è credibile. Baz Luhrmann non è un regista prolifico, ma già nei lavori precedenti aveva occhieggiato al musical. Certi suoi film hanno una forte nervatura musicale, uno su tutti Moulin Rouge. Questo sicuramente è un film rutilante, però ci sono anche degli elementi molto interessanti, come ad esempio si respira a tratti l'atmosfera della scena musicale afroamericana tra i 50 e i 60, e questo è comunque piacevole. Ecco, questo è un aspetto molto interessante, infatti anch'io l'avevo scritto nelle recensioni, cioè che fa emergere a tratti quella che era l'anima molto ruvida, molto radicata al territorio, molto selvaggia e ancestrale di Elvis, che era affascinatissimo fin da bambino dalle percussioni, dai ritmi tribali, no? African American, che erano tipici della sua zona, sì. Dal gospel, dal blues, da tutte quelle musicalità profondamente radicate sul territorio negli stati del sud degli Stati Uniti, quindi lui veniva da Memphis, e però è sembrato quasi che appunto non si desse abbastanza spazio, quantomeno Elvis è stato anche bloccato lui stesso nell'espressione di questa sua anima nera. Qual è il vero Elvis? Quasi una ricerca di identità. Moulin Rouge, che tu hai citato, secondo me resta ad oggi il suo film migliore, insieme forse proprio a Romeo e Giulietta, che fece ancora prima. Invece in questo caso, appunto, forse c'è poca radicalità. Quel filone che tu hai citato prima, cioè l'abbracciare a quell'anima così quasi sotterranea, no? Che vuole emergere a tutti i costi, poteva essere una chiave di rafforzamento del film. Aggiungo la chiave anche razziale, che ha fatto passare alcuni guai a Elvis, e soprattutto il suo modo di esibirsi sul palco, quasi un travestitismo, e poi gli ammiccamenti sessuali che erano insopportabili per l'America puritana. Certo, ma questo è tutto qualcosa che noi sappiamo, che conosciamo, certamente viene messo in evidenza il movimento pelvico, infatti Elvis the Pelvis, non a caso. Vorrei farti una domanda: a te piace Elvis, il suo mito, la sua musica, il suo modo di vivere la musica? Poco. Anche quell'aspetto appunto invece così legato alla tribalità nera? Quello l'ho trovato l'aspetto più interessante. Cioè, non credi che lui, forse lasciato libero, avrebbe potuto esprimere qualcosa di molto di più, o forse se avesse vissuto di più, perché la sua musica forse era in evoluzione, certo, no? Certo, quello che era stato soprattutto alle origini, certo. Sì, alle origini, e poi forse verso la fine, quando fa quella performance incredibile, l'acustica, no? Al pianoforte, che ci ha lasciato come testamento, che forse lì c'era un'anima veramente diversa dal bravo ragazzo americano, ecco, sì. Com'è stato accolto all'estero? So che a Cannes abbastanza diviso, una parte della critica anglosassone mi è sembrato che fosse molto a favore del film, ci sono stati dei commenti entusiasmanti e altri commenti piuttosto indifferenti rispetto all'operazione. Ecco, io stessa trovo dei lati positivi, in parte anche tu l'hai tirati fuori, però complessivamente non sento che abbia raggiunto quel punto che si era forse prestabilito all'inizio, Baz Luhrmann, penso io. Il film Elvis di Baz Luhrmann al cinema da mercoledì 22 giugno 2022. Un saluto e un ringraziamento alla critica cinematografica Anna Maria Pasetti. Alla prossima! Un saluto a voi, grazie. Un abbraccio, ciao Fede. Con Sonia Caligaro e Fabiana Balsamo di Incipit Film, distribuzione del film Sanremo di Miroslav Mandic al cinema da giovedì 23 giugno 2022. Ben trovate. Ciao, buongiorno. Buongiorno a tutti. Raccontiamo un po' le vicende di questo film, di cosa si parla? Questo film parla di una storia d'amore tra due anziani che vivono in una casa di riposo. È una storia segnata da alti e bassi, da momenti in cui il ricordo dell'altro svanisce per poi ricominciare. Il tutto perché entrambi i protagonisti, Bruno e Dusha, soffrono di Alzheimer. E quindi ogni giorno loro in questa casa di riposo si incontrano, ma è come se fosse la prima volta perché non si ricordano l'uno dell'altro e quindi ricominciano tutto da capo. Cosa vi aveva convinto di questo progetto? Il regista ci ha proposto questo progetto qualche anno fa pensando a una sua storia personale, perché lo zio appunto viveva in una casa di riposo e lui si era immaginato questa storia romantica, dolce e amara, per cui pensando a una possibile relazione amorosa tra queste persone, insomma. E ci aveva molto affascinato, ecco, questa proposta. Raccontiamo anche un po' il percorso di Incipit Film. Noi siamo una società di produzione piccola con sede a Udine, coproduciamo spesso con la Slovenia appunto, infatti la società di Miroslav è slovena. Principalmente ci occupiamo di documentari, ma recentemente abbiamo iniziato a coprodurre film di finzione e anche a produrre dei progetti nostri. E il percorso cinematografico invece di Miroslav Mandic? Miroslav ha fatto diversi documentari e 3 film di finzione distribuiti negli Stati Uniti e in Slovenia principalmente, e questo è il suo primo film che viene distribuito anche in Italia, quindi siamo molto contente. Cosa vi è piaciuto invece nella realizzazione? Quali sono i punti di forza del film? È un team molto unito, i film indipendenti si caratterizzano anche per delle troupe abbastanza ridotte, non come i film hollywoodiani che ci sono centinaia di persone sul set, e quindi ci siamo tutti dati una mano, è stata una squadra molto forte e unita. E poi la cosa bella è che il film è stato girato praticamente tutto in un'unica location e questo ha agevolato moltissimo la produzione, anche perché eravamo veramente tutti vicini sul set e quindi si è creato per questo un forte legame. Visto che è una produzione italo-slovena, avrà un'uscita internazionale? Sì, l'uscita internazionale l'ha già avuta, infatti prima di arrivare alla distribuzione cinema in Slovenia e ora in Italia ha avuto la sua distribuzione internazionale che è iniziata col Tallinn Black Nights Film Festival nel novembre 2020. Da allora ha fatto oltre 18 festival internazionali il film ed è stato venduto anche a diverse piattaforme VOD, SVOD, quindi di streaming internazionali, soprattutto in Brasile e in America. E ora appunto, dopo una distribuzione cinema in Slovenia, iniziata nell'ottobre del 2021, inizieremo a distribuire il film nelle sale italiane. Con che modalità e in quante sale? Per la prima settimana sarà presente in 5 sale italiane. A Trieste al Cinema Nazionale dal 23 giugno, a Udine al Cinema Visionario dal 23 giugno, a Pordenone al Cinema Zero dal 23 giugno, a Roma allo Spazio Apollo 11 solo sabato 25 e a Milano al Cinema Beltrade dal 30 giugno. Alcuni di questi cinema hanno scelto di proiettare il film esclusivamente in versione originale sottotitolata in italiano, come il Beltrade di Milano. A Trieste, vista anche la vicinanza con la Slovenia, ci saranno alcune proiezioni in lingua originale, lo stesso a Udine. Per il resto saranno invece doppiate in italiano, il film sarà doppiato e proiettato in italiano. Questo è quanto per la prima settimana, poi il calendario ora è in via di definizione. Per l'elenco delle sale e il calendario, quali sono i riferimenti web? La nostra pagina Facebook Incipit Film, potete seguirci lì e noi pubblicheremo ogni volta tutte le informazioni con le nuove date e le nuove sale. Il film Sanremo di Miroslav Mandic al cinema da giovedì 23 giugno 2022. Un saluto e un ringraziamento a Sonia Caligaro e Fabiana Balsamo di Incipit Film che lo ha prodotto. A presto! A presto, grazie! con Alfredo della Fondazione La Rossa Primavera per presentare il documentario Fedain del collettivo Vacarm Film a Roma, allo Strike S.P.A., giovedì 23 giugno 2022. Ben trovato. Grazie e buongiorno a tutti e a tutte. Che lavoro è questo? Questo è un film prodotto da un collettivo militante, soprattutto sulla causa internazionalista, in particolare la palestinese, basato a Toulouse, in Francia. Sono francesi principalmente, ma non solo, e fra loro c'è un esperto in cinematografia che ha fatto il montaggio e ha costruito questo documentario. E ha avuto un notevole successo perché l'hanno prodotto al culmine di tutta questa grande campagna internazionalista a sostegno di George Abdallah e più ampiamente della causa palestinese, ha fatto sì che questo film circoli molto dalle Americhe all'Europa, all'Asia e all'Africa. Come è strutturato il documentario? Su due binari. Uno, ovviamente, la vicenda di George Abdallah, ma è intrecciata completamente alla storia della resistenza palestinese, dalla Nakba in poi. E questo è molto buono perché spersonalizza un po' la faccenda, insomma, e la situa giustamente nel contesto collettivo che le propria. Ci sono 8-9 militanti che intervengono a più riprese, sono in particolare dei palestinesi dell'organizzazione Samidun, che appunto è un'organizzazione collegata al Fronte Popolare di Liberazione della Palestina, che si occupa appunto dei prigionieri sul piano internazionale. Ci sono un paio di rappresentanti del collettivo della campagna unitaria per la liberazione di George Abdallah, e questi sono appunto anche un francese e un arabo. Ci sono degli ex compagni di lotta in carcere di George, che sono peraltro appunto un francese e un belga, e ci sono i familiari di George, perché è una famiglia comunista di lunga data. Poi nel film si capisce anche perché, tra l'altro, ci sono dei risvolti nella sua vicenda che toccano la famiglia. Quindi è tutta una serie di interventi inframmezzati da filmati d'epoca e interventi d'epoca. Ci racconti anche un po' della sua vicenda politica e della campagna in suo favore? George è veramente una figura eccezionale, perché lui è un militante comunista che ha cominciato negli anni 70 in Libano, è libanese, e naturalmente in quel contesto immaginatevi cos'era: la guerra civile in Libano, e la forza della resistenza palestinese all'epoca, che era molto installata in Libano appunto. E lui si schiera col Fronte Popolare di Liberazione della Palestina, tendenza comunque comunista in ogni caso, e si ritrova soprattutto coinvolto, tra l'altro, nell'invasione la più brutale che Israele ha fatto nell'82. Nell'82 Israele massacra, mi sembra, un 30.000 palestinesi e libanesi entrando nel paese, e compie la drammatica strage dei campi di Sabra Shatila, dove ammazzò 2-3 mila persone inermi, vecchi, bambini, insomma, delle cose atroci. Sulle stragi di Sabra e Shatila precisiamo che non furono attuate direttamente dall'esercito israeliano, ma l'esercito israeliano diede mano libera alle milizie falangiste. Sì, alle milizie fasciste libanesi, sì, insomma, certo, ma insomma, si sa come vanno ste cose, insomma, chi comanda, poi chi pilota. George a quel punto, insieme ad altri militanti, aveva formato le frazioni armate rivoluzionarie libanesi, quindi un'organizzazione di tipo le nostre organizzazioni combattenti, per intenderci, dell'epoca, e decide di portare la guerra nei centri imperialisti. Ora, quelli più vicini e corresponsabili erano ovviamente gli europei, e vanno ad operare a Parigi. A Parigi faranno delle azioni di guerriglia particolarmente mirate e pesanti, cioè colpirono niente meno che il capo del Mossad a Parigi. È un responsabile militare di alto livello degli Stati Uniti. Viene catturato nell'84 e lui comincia una lunga detenzione che tuttora continua, quindi sono 38 anni adesso di carcere, e lui ha continuato a militare attivamente dal carcere. Per lui la lotta continuava, appunto, non si è mai posto talmente il problema della sua liberazione. Questa sua coerenza è stata oltretutto su un piano molto internazionalista, perché già prima della cattura le FARL cooperarono con le organizzazioni rivoluzionarie in Europa, quindi con le Brigate Rosse, con cui fecero un'azione in comune, con la RAF tedesca, le cellule comuniste combattenti del Belgio e ancora qualcun altro. La loro impostazione fece sì che appunto lui anche in carcere svilupparono molto questi rapporti internazionalisti, di cui si vedrà nel film, perché appunto un paio di questi sono compagni anche noti, insomma, Jean-Marc Rouillon di Action Directe, Bertrand Sassois delle cellule belghe, Si intensificarono questi rapporti alla fine degli anni 90. Fece una piattaforma di solidarietà comune fra i prigionieri in tutta Europa, Turchia, Kurdistan compresi. Questa piattaforma si intrecciava alla formazione del Soccorso Rosso Internazionale all'esterno. E infatti quello è un passaggio importante fra il 99 e il 2000, perché questo qua proprio dell'ampiezza e la dimensione di queste attività e di queste relazioni molto forti fra militanti e cause anche distanti, ma tutte all'interno, diciamo così, del bacino euro-mediterraneo. Quindi lui è situato lì. Il fatto che poi lui ha avuto una risonanza mediatica non voluta dall'inizio, questo l'ha reso noto in Francia molto, e soprattutto negli ambienti delle banlieue, quindi dei giovani dell'immigrazione araba e africana in particolare, lui è diventato un po' un'icona molto rappresentativa, sicché la solidarietà nei suoi confronti ha preso subito vigore, e pensate che adesso le manifestazioni che si fanno in suo sostegno, in genere se ne fanno 3-4 all'anno in Francia, ma contemporaneamente le si fanno anche in diverse città del mondo arabo, in Europa, Italia compresa, e addirittura fino nelle Americhe. Sotto il suo carcere, che è nascosto in un enclave in mezzo ai Pirenei, arrivano più di 1000 persone adesso a manifestare. George qui in Italia è perfettamente sconosciuto, però la causa palestinese no, quindi per noi già è porre la questione della causa palestinese, ma in quest'ottica internazionalista giustamente, perché è il modo in cui lui, la sua organizzazione l'ha vissuto, la vive. E questo ci dà il verso di parlare di cose che qui in Italia invece sono tenute nascoste, cioè noi abbiamo in Italia dei prigionieri politici delle Brigate Rosse che quest'anno fanno 40 anni di detenzione, dall'82. Alcuni di questi sono implicati proprio nella strategia del fronte antiimperialista, in particolare che agì contro la NATO negli anni 80, e quindi sono delle connessioni che a noi interessa mettere in rilievo, primo per solidarietà a questi prigionieri e prigioniere, e secondo perché, guarda caso, il nemico è quasi sempre lo stesso, che si ripropone sotto forme diverse, ma la NATO di oggi stiamo vedendo cosa fa, ed era la punta di diamante di tutta la catena imperialista già all'epoca. Quindi parleremo anche di questo, e proprio perché, diciamo, come lui stesso dice, e metteremo a disposizione i documenti, le sue dichiarazioni, lui è una persona incredibile, perché tanto la gente lo vuole liberare, lui non parla mai della sua liberazione, lui parla della lotta rivoluzionaria, che bisogna cambiare il mondo, che bisogna abbattere l'imperialismo, ed è di una coerenza e di una forza davvero ammirevole. Quindi noi cerchiamo di portare il tutto su questo piano di internazionalismo militante e anticapitalista, antiimperialista. Il documentario Fedain del collettivo Vacarm Film a Roma, lo strike spazio pubblico autogestito, giovedì 23 giugno 2022. Un saluto e un ringraziamento ad Alfredo della Fondazione La Rossa Primavera. A presto. Grazie a voi, certo, a presto volentieri. Ciao ciao. Con Maria Iovine, regista del cortometraggio Un altro genere di storia, a Roma, alla Biblioteca Aldo Fabrizi, venerdì 24 giugno 2022, ben trovata. Ciao, ciao a tutti e a tutte. Raccontaci un po' di questo lavoro. È un lavoro di pura, assoluta e totale militanza. Nasce da una collaborazione che ormai ho da tantissimi anni con Bifree, che è una cooperativa sociale contro la tratta, la violenza e la discriminazione delle donne. E io lavoro con loro tutte le volte che posso, e loro mi hanno coinvolta in questo progetto, il cui obiettivo è quello di rintracciare la storia delle donne che è stata cancellata in un quartiere così complicato come quello di San Basilio a Roma, e nasce in un percorso con le donne. Come succede in tutti i documentari, la camera è stata accesa solo nella fase finale, ma io ho passato un anno con queste donne a partire da settembre 2021, e siamo state insieme durante questi mesi, abbiamo fatto degli incontri tra donne, abbiamo imparato a conoscerci, a riscoprire le nostre radici. Poi da lì, alla fine, abbiamo deciso di accendere la camera e loro si sono aperte a me. Come hai deciso di strutturarlo? una struttura molto semplice. Io ho parlato al plurale, ho detto ci siamo messi in cerchio, com'è la pratica femminista di mettersi in cerchio e di partire da sé, quindi di parlare di noi partendo dalle nostre vite, ed è una cosa che ho fatto anch'io con loro. E poi ho raccolto, spesso ho anche girato in questi incontri, ma non li ho mai usati poi questi materiali per realizzare il documentario. E poi ho deciso con loro di raccogliere questa storia attraverso delle immagini, delle foto di ciascuna di loro, e di parlare con loro della propria vita. Loro sono le donne che hanno vissuto e abitato il quartiere di San Basilio e che in qualche modo hanno incontrato Spazio Donna, che è appunto questo presidio di Be Free a San Basilio, e sono delle donne molto diverse tra di loro. Ci sono delle donne che sono nate lì, sono delle donne che potrebbero avere l'età di mia madre, ma ci sono anche ragazze giovani. C'è una donna che in qualche modo è stata adottata da San Basilio, che è Carla Corciulo, che è una maestra, la maestra di San Basilio la chiamano. Lei è cresciuta, è nata, è vissuta in tutt'altro quartiere. 30 anni fa si è trovata ad essere un'insegnante di San Basilio. E lei dice: quando sono arrivata per la prima volta in questa scuola mi hanno fatto le condoglianze pensando che me ne sarei andata, avrei chiesto il trasferimento il prima possibile. Invece io ci sono rimasta ed è stato bellissimo, perché con le mamme, con le donne, con le altre insegnanti abbiamo creato una rete, una famiglia che è andata avanti appunto per 30 anni, e lei è un parte di San Basilio. C'è anche un'altra ragazza, Sara Fantoni, che è una ragazza di 26 anni che è nata e cresciuta in questo quartiere, nel disagio di un quartiere di periferia, e semplicemente ha cercato di metterci del suo, per cui insieme ad altri ragazzi e ragazze ha creato una scuola popolare che fosse appunto un punto di incontro. Lei si definisce un'attivista dell'educazione, e che fosse un punto di incontro per i giovani, per un supporto all'insegnamento e per appunto creare un presidio culturale, un punto di riferimento culturale in un quartiere dove lo Stato fondamentalmente non se ne è occupato. E ci sono donne con storie difficili, ovviamente, perché stiamo parlando di un centro antiviolenza. Poi c'è una donna per me veramente vulcanica, che è Katia. Katia è una donna che ha vissuto delle situazioni diversissime nella sua vita e che ne parla con una saggezza, una profondità che spesso è disarmante, e lei ci racconta proprio del suo percorso di uscita dalla violenza, che è stato un percorso lungo, ovviamente doloroso, però si parla di una rinascita. Questa è una cosa che spesso, quando si parla di violenza sulle donne, si fa sempre fatica a fare. Si parla del dolore, si parla del sangue, si parla delle botte, si parla di vittime. Invece noi, quando sentiamo parlare Katia, abbiamo davanti a noi una donna che a un certo punto è riuscita a ricostruire la propria vita e a rinascere, ed è secondo me una storia bellissima. C'è la storia di Alessandra, sembra una storia normalissima, una ragazza che si è innamorata, che si è sposata, che ha fatto dei figli, e ci racconta che cos'è vivere in un quartiere dove cresci dei figli con la difficoltà di non avere un liceo nelle vicinanze e quindi dover far sempre riferimento a qualcosa d'altro, ad un centro che sembra quasi un'altra città. Poi c'è Simona, è una donna che è arrivata a San Basilio dopo una separazione difficile con un figlio con problemi, si è sentita molto sola, non aveva più nulla, e le donne, gli uomini di questo quartiere l'hanno accolta, aiutata, e lei da sola, senza un lavoro e con un figlio problematico, è riuscita appunto a ricostruirsi una vita e soprattutto a dare una vita nuova a suo figlio, grazie appunto alla rete, alla solidarietà che si è creata tra questi cittadini. E ci parla oggi di una consapevolezza nuova, della necessità e della voglia di volersi ricreare una vita al di là di suo figlio, che ormai è cresciuto e riesce piano piano ad essere indipendente, e della sua ricerca di lavoro, di indipendenza, di autonomia, della sua necessità di sentirsi utile, si definisce così in realtà, di sentirsi viva soprattutto, ed è un percorso che sta facendo appunto con Spazio Donna. Ci spieghi il titolo? che è nato all'interno in realtà del laboratorio, è nato dalla frase di una delle donne che è stata intervistata e che ha percorso con noi questo progetto, ed è proprio la chiave di lettura. Un altro genere di storia è raccontare la storia dalla parte delle donne, è qualcosa di estremamente profondo. Oria Gargano, la presidente di BeFree, parlando con le donne, ha detto un giorno: pensate a una persona di 55 anni che non ricorda i primi 35 anni della sua vita, come fa a costruire la propria identità? E in questa frase c'è la chiave. Noi donne, il genere femminile non è stato raccontato dalla storia, è stato in qualche modo seppellito oppure raccontato solo come madri, ancelle, compagne. E disseppellire la propria storia vuol dire riscoprire la propria identità. E questa cosa io l'ho scoperta anche proprio sul campo, quando, parlando con le donne durante le interviste, a un certo punto ho chiesto a tutte cosa fosse la cura e cosa fosse la forza, in due domande legate che per me erano relazionate tra di loro, però non le ho relazionate all'interno dell'intervista. E la cosa sorprendente è stata che tutte sono riuscite a spiegarmi cosa fosse la cura. Ognuna con la propria declinazione, visione, modalità, però tutte erano assolutamente padrone del concetto. Quando ho chiesto loro cosa fosse la forza, anche in questo caso tutte erano preparatissime su cosa fosse la forza, ma nessuna è riuscita a relazionare davvero il concetto a se stessa. Invece io davanti a me vedevo delle donne fortissime che erano uscite da situazioni difficilissime, e questo mi ha spiegato perché ha senso raccontare appunto un altro genere di storia. Ed è una cosa che anche da donna, da femminista e da attivista poi mi ritorna nel motto che bisogna partire sempre da sé, è vero. Io sono una regista donna, sono una leader nel lavoro che faccio, e tanto, tanto spesso mi sono dovuta trovare a confrontarmi io stessa col concetto di forza, con un concetto che non è relazionato alla mia storia, al modo in cui sono cresciuta. È qualcosa che a un uomo sicuramente viene più facile, e quindi questo ha il senso, ritrovare le proprie origini per capire quali sono i punti di forza, quali sono i punti di debolezza, e ritrovare la propria identità, anche quella nascosta. Il cortometraggio Un altro genere di storia, a Roma, alla Biblioteca Aldo Fabrizi, venerdì 24 giugno 2022. Un saluto e un ringraziamento alla regista Maria Iovine. A presto! Grazie, grazie. Ciao a tutti e a tutte. Saremo lì io e tutte le donne di BeFree. Ciao! Con Sergio Sozzo di Sentieri Selvaggi, moderatore della parte cinema del festival Libera il Futuro per valorizzare la creatività dei giovani con i giovani, a Roma, libreria Zalib, dal 28 al 30 giugno 2022. Ben trovato. Grazie, grazie. Sono sempre contento di esserci. Un festival che si occupa di varie discipline, quella di cinema però è in queste tre giornate. Raccontaci un po'. Libera il Futuro è stato un progetto triennale portato nelle scuole, un progetto di educazione che Arci Ragazzi di Roma ha portato nelle scuole per 3 anni, e questi sono gli eventi conclusivi in cui in qualche maniera i discorsi che sono stati affrontati didatticamente vengono portati alla città. Quindi ci saranno momenti di sport, momenti di teatro, momenti di musica, e per quanto riguarda il cinema abbiamo deciso di coinvolgere in questo bellissimo giardino di Zalib, appunto a Trastevere. Abbiamo deciso di coinvolgere 3 persone che in maniera diversa hanno raccontato i giovani, o la maniera con cui le altre generazioni guardano i giovani, o anche il desiderio di rimanere sempre giovani. Iniziamo il 28 di giugno con Ludovico Bestegato, che è uno dei creatori, degli autori e dei registi di Scam Italia, quindi un titolo chiave per questa generazione di spettatori seriali. Ma in realtà, insomma, Ludovico viene dalla serialità del web con Kubrick, Una storia porno, ha attraversato come produttore creativo, consulente creativo anche la serialità Rai, Rocco Schiavone, eccetera. Con lui racconteremo proprio come ci si deve ridefinire a seconda del linguaggio. Il giorno dopo, il 29, sarà la volta di Ciro De Caro, fresco vincitore di Un nastro d'argento per il suo Giulia, che da sempre, sin dall'esordio di Spaghetti Story, racconta questi personaggi che non vogliono diventare adulti, no? Non vogliono accettare la maturità. E con lui parleremo un po' di una via al cinema più indietro

sono stati dei filoni che abbiamo tracciato, ovvero da un lato c'era un'attenzione ai classici, quindi andare un po' a vedere quelli che erano stati gli anniversari, per cui andiamo anche da Liziani a Gatman, oppure Monica Vitti, abbiamo quindi attinto alla tradizione del cinema italiano. Poi c'è un altro criterio che era quello anche della commedia, pensando che tutto sommato la sera sul Tevere la gente avesse voglia anche un po' di rilassarsi e ridere, sorridere. C'è un criterio che invece si chiama, è quello dei millennial, cioè film dei nuovi registi, per cui ci saranno anche film come La Tana, Piccolo Corpo, Maternal, quindi degli esordi importanti di quest'anno. Un altro criterio era la serialità, per cui tra le cose che faremo vedere ci saranno dei film o delle opere di serie, come ad esempio Una squadra di Domenico Procacci o anche Le fate ignoranti di Ferdinand Ospetek. In entrambi i casi saranno presenti appunto i registi. Come funzioneranno le serate? Alle 21.30 più o meno parte sempre il film e un'ora prima o mezz'ora prima c'è l'incontro. L'ingresso è sempre gratuito, il programma è disponibile sul sito Lazio Terra di Cinema, che è il nuovo sito della Regione Lazio che va a raccogliere una sorta di hub online che raccoglie tutte le info del cinema qui in regione. Il primo bilancio per scena? È estremamente positivo, perché su 270 giornate circa di programmazione che abbiamo avuto abbiamo riscontrato circa 10.000 ingressi, quindi se fai un po' il conto di quanto avevo detto che era grande la sala, cioè 67 posti, diciamo che noi la crisi della sala non l'abbiamo patita. È vero ovviamente che quella è una sala sempre gratuita, il cui obiettivo è anche l'alfabetizzazione cinematografica. Quindi l'idea è quella di riportare la gente al cinema, di abituarla al cinema. C'è anche un grande lavoro che si fa con le scuole e le università, quindi è un posto dove anche la mattina spesso si vedono film, si parla di cinema, si racconta anche quello che significa lavorare nel cinema a tutti i livelli, con tutte le maestranze. Su quali idee state lavorando per la nuova stagione? Sicuramente riproporremo gli appuntamenti che hanno funzionato molto bene, come anche le rassegne d'autore e di autrice. Ad esempio, una delle ultime che è andata benissimo era quella con Costanza Quatriglio. Abbiamo avuto precedentemente Daniele Vicari, Susanna Chiarelli e Leonora Danco. Quindi sicuramente ci saranno queste monografie di registi e registi contemporanei. Si riproporrà la collaborazione con la Festa del Cinema per Roma. Ci saranno senz'altro anche gli appuntamenti della settimana della critica dei grandi festival, cioè Cannes, Locarno e Venezia. Ci tengo a sottolineare che questi ultimi due appuntamenti sono appuntamenti invece a pagamento, perché ovviamente tutti i resti della città paga in altri luoghi, quindi in quel caso abbiamo invitato anche noi. Ci teniamo molto affinché le piccole e medie produzioni possano avere da noi anche uno spazio, un'ospitalità per far vedere i nuovi prodotti del cinema non per forza mainstream che si sta girando in Italia e non solo in Italia. L'arena di scena, il cinema lungo il Tevere, a Roma dal 17 giugno al 31 luglio 2022. Un saluto e un ringraziamento ad uno dei curatori della programmazione. A presto! A presto, ciao! Con Pedro Armocida, direttore artistico della 58esima Mostra Internazionale del Nuovo Cinema a Pesaro dal 18 al 25 giugno 2022, ben trovato. Ciao a tutti, ciao Federico. Raccontiamo un po' cos'è questo pezzo di storia del cinema italiano. Il festival appunto inizia sabato 18 giugno con la proiezione nella grande arena di Piazza del Popolo di Pesaro di E.T. l'extraterrestre, praticamente in concomitanza proprio con l'anniversario dei 40 anni, ahimè, di uscita negli Stati Uniti del film di Spielberg. E questa è una scelta che segue una linea di questo tipo di anniversari negli anni. Abbiamo proiettato appunto dallo Squalo a Rocky a Hollywood Party, e qualcuno scherza dicendo magari prima o poi faremo tutta la filmografia di Spielberg, visto che è abbastanza prolifico anno per anno. E da questo inizio, che vuole essere quello di identificare comunque anche nel passato un cinema che noi consideriamo d'autore oggi, ma che all'epoca appunto Pesaro non aveva possibilità di essere proiettato anche per motivi magari un po' ideologici. E da questa prima proiezione poi andiamo avanti per tutto il festival, per tutte le serate. Io parlo adesso in particolare di questa parte legata alla piazza, che è quella anche più rivolta verso il pubblico del festival più ampio. Già subito domenica 19 avremo appunto un altro regista americano, Abel Ferrara, che parlerà di Pasolini nel centenario le nascite di Pasolini in maniera anche un po' originale rispetto agli altri omaggi che sono stati fatti, perché appunto Abel Ferrara è l'unico regista straniero in qualche modo di grande importanza che ha girato un film proprio su Pasolini. Quindi noi ricordiamo il regista, scrittore e cineasta che ha dato in pratica i Natali al festival, perché la mostra è nata nel 65 proprio con Pasolini che leggeva quell'anno un suo importante scritto sulla differenza tra cinema di prosa e cinema di poesia. Come si sta sviluppando nel corso degli anni questo storico festival? Anche dalle cose che ti ho detto, soprattutto questa su Pasolini, si può comunque capire e intendere come il festival cerchi di mantenere, cerchi di essere ancorato alla sua tradizione, al suo passato, che non vuol dire appunto uno sguardo, no, né conservatore né tantomeno reazionario, ma di avere il fulcro su quel tipo di cinema, cioè il nuovo cinema dell'epoca, che oggi non esiste come categoria del cinema, ma inteso come nuovi linguaggi. Quindi da una parte, no, manteniamo questa attenzione anche al passato del festival, credo forse siamo gli unici che celebriamo il centenario di Jonas Mekas, che cade anche quest'anno, questo sempre per ritornare all'origine della mostra. Nel 66 ci fu la prima più importante retrospettiva o in contemporanea col movimento del New American Cinema di appunto Mekas e gli altri, e quindi tutto questo poi confluisce sul discorso del concorso internazionale, che è il fulcro del festival, perché è quello che ha lo sguardo più avanzato sui nuovi linguaggi, sulle nuove sperimentazioni che in questo momento toccano soprattutto il cinema non narrativo, non lo chiamiamo neanche documentario, della non fiction, comunque in un ambito di cinema che ha molto a che fare con quello che viene chiamato il cinema del reale, che in questo momento è quello più vivo, quello forse anche più interessante, e noi cerchiamo di intercettarlo con 18 opere. La particolarità del concorso è che è aperto a tutti i formati, quindi abbiamo fin dai 7 minuti ai lungometraggi. L'anno scorso anche la giuria decretò appunto questa validità di questa proposta, premiando un film di 12 minuti e menzionando con una menzione speciale un film di 2 ore e mezza. Nel complesso, quante sono le opere presentate e poi se ci sarà anche modo di incontrare autori e autrici? Non le ho ancora contate, c'ho qui davanti l'indice dei film che occupa 2 pagine, quindi direi forse su 50-55, ma comunque il catalogo è già sul sito della mostra. E sì, assolutamente verranno tutti i registi dei film del concorso, appunto abbiamo detto Abel Ferrara, ma anche Giulia, ci sarà Tommaso Ragno, che abbiamo tutti visto nello splendido Nostalgia di Mario Martone, che è il regista poi omaggiato, no, nell'evento speciale sul cinema italiano, con le retrospettive di tutti i film di Martone, un volume dedicato a lui, una tavola rotonda con lui, in questo caso appunto anche con Tommaso Ragno, che coincide anche con un altro omaggio che ho voluto fare ad Antonio Capuano, un altro regista napoletano. Presenteremo un libro su di lui e verrà lui, e ho voluto anche omaggiarlo proiettando in piazza Il buco in testa, il suo ultimo film di Antonio Capuano, in cui c'è anche Tommaso Ragno protagonista, un film uscito durante appunto la prima pandemia, il primo lockdown, e quindi penalizzato, che mi piacerebbe far riscoprire e sottolineare l'importanza di Capuano, il grande cineasta, al di là anche della citazione di Paolo Sorrentino, Non ti disunire. Ci dai tutti i riferimenti web per i dettagli del programma? Sì, naturalmente tutti i social Pesaro Film Festival, il sito è www.pesarofilmfest.it dal 18 al 25 giugno, la 58esima promozione internazionale del nuovo cinema di Pesaro. Un saluto e un ringraziamento al direttore artistico Pedro Armocida. A presto! Ciao, grazie. Con Paolo Santamaria, direttore artistico della 6ª edizione di Cinema e Ambiente Avezzano, dal 13 al 21 giugno 2022, ben trovato. Grazie, grazie a voi e ben trovati. Che cos'è questo festival? Cinema Ambiente Avezzano è sicuramente un festival cinematografico, vuole essere un festival con la F maiuscola, cioè non una rassegna di opere già viste, di opere di grandi autori, ma vuole essere un festival che dà spazio a autori comunque che da tutto il mondo cercano, no, di trovare una distribuzione, cercano di dar voce e dar spazio alle proprie creazioni, che di anno in anno continuano ad arrivare al festival sempre in numero maggiore, quindi testimoniano comunque un'attenzione da parte del mondo del cinema alla tematica ambientale di rilievo e di sostanza. Cinema Ambiente Avezzano poi non è soltanto un festival rivolto appunto a registi che da tutto il mondo inviano le loro opere, ma è anche un'iniziativa, un movimento che vuole instaurare sul territorio marsicano, quest'area della provincia dell'Aquila, dell'entroterra abruzzese, vuole instaurare comunque un pensiero critico, uno spirito di osservazione un po' più approfondito su quelle che sono tematiche comunque proprie dell'Agenda 2030 e comunque di quelli che sono gli obiettivi dell'Unione Europea. Pertanto noi vogliamo, attraverso gli sguardi di autori che da tutto il mondo inviano le loro opere, sensibilizzare quella che è l'opinione territoriale, la cultura delle persone che vivono quest'area in maniera radicale, quindi partendo dalle nuove generazioni, ma andando comunque anche a intercettare quelle che sono invece le generazioni più grandi, le generazioni che da un certo punto di vista hanno magari le responsabilità maggiori su quelli che sono gli esiti che oggi viviamo rispetto alla nostra ambiente. Quindi Cineambientalizzano è sì un festival cinematografico, ma è anche un insieme di tante iniziative di sensibilizzazione e di educazione ambientale che lungo tutto l'arco dell'anno attraversano in maniera proprio trasversale il territorio marsicano, con giornate ecologiche, con progettazione partecipata, con tutta una serie di iniziative che comunque cercano a tutto tondo di appunto fare un lavoro di sensibilizzazione e di educazione ambientale importante e che ovviamente hanno poi l'obiettivo di smuovere comunque l'opinione pubblica a livello territoriale. Come era nata l'idea e come si è sviluppata nel corso degli anni? L'idea nasce grazie alla collaborazione con la cooperativa Ambeco, una cooperativa che da 25 anni ormai opera sul territorio marsicano e che 25 anni fa ha iniziato a parlare di educazione ambientale, di fattori didattici, di argomenti che all'epoca erano avveniristici e magari anche poco compresi, oggi sono un po' un cliché. Quindi nasce un incontro con questa cooperativa, con Silvia Cardarelli, la presidente, e altre. Una cooperativa tutta al femminile, tra l'altro, quindi con una visione molto avveniristica sotto tutti i punti di vista. Nasce con l'incontro con Ambeco. Abbiamo nel 2016 creato una prima edizione molto semplice in collaborazione col Centro Sperimentale di Cinematografia, sede Abruzzo, scuola con cui mi sono diplomato. Ha portato poi, appunto, sostanzialmente a degli sviluppi sempre più concreti. Abbiamo vinto un bando sia nel 2019, con cui abbiamo realizzato una prima vera grande edizione internazionale con registi che sono venuti da tutto il mondo. L'anno scorso, in piena pandemia, abbiamo fatto questo sforzo, insomma, di essere uno dei primi eventi in presenza, ancora in zona gialla, quindi con tanto di coprifuoco. Quest'anno, grazie anche al contributo dell'edizione cinema, Ministero della Cultura, come progetto speciale, siamo riusciti appunto a fare la più grande delle edizioni, quindi a vedere una crescita costante. Siamo alla sesta edizione, al settimo anno, perché il 2020 è stato saltato, però c'è una crescita importante e costante. Quante sono le opere presentate in questa edizione e come si articolerà? Quest'anno abbiamo 61 film in concorso, che molti film sono corali, quindi avremo 90 registi come la coinvolti. Ci sono 13 anteprime italiane, 3 anteprime mondiali, e si articolerà in 4 sezioni. Noi dividiamo sempre il festival in sezioni tematiche, perché l'argomento ambientale poi tocca vari fronti. Quest'anno abbiamo la sezione Earth Brief, il respiro della terra, che tratta tutti quei film che pongono attenzione sul respiro della terra, quindi sui boschi, sui mari, su quegli habitat che sostanzialmente danno poi ossigeno al nostro pianeta, e quindi sostanzialmente tratta poi dei luoghi incontaminati. Abbiamo una sezione che si chiama Mondi Lontani, Far Off Worlds, che invece cerca di porre attenzione su quegli habitat invece lontani, quegli ecosistemi che noi non conosciamo, quindi dai film sulla Polinesia, film che parlano dell'America Latina e quant'altro, quindi sostanzialmente che trattano di territori molto lontani da noi. Abbiamo una sezione, si chiamano Planet B, Nessun Pianeta B, che tratta sostanzialmente di inquinamento e di trattamento dei rifiuti, e quest'anno abbiamo una nuova sezione, si chiama Zanne e Sangue, Punks and Blood, un po' splatter magari dal titolo, ma in realtà tratta di wilderness, quindi di fauna, e di quanto poi sostanzialmente l'essere umano e l'azione dell'essere umano vada a inficiare e a influenzare la vita delle altre specie viventi. Quest'anno il tema centrale del festival sarà l'antropocene, quindi tutti i talk che poi si alterneranno alle proiezioni, staranno in orari di aperitivo, quindi alle 19.30, alle 20.30, tratteranno questa tematica sotto tanti punti di vista, quindi sostanzialmente l'impatto anche geologico dell'essere umano su questo pianeta. Ci dai tutti i riferimenti web per i dettagli? www.cinemaiambientavezzano.it. Vi invito poi a seguire ovviamente le pagine social Facebook e Instagram, perché stiamo facendo un lavoro molto certosino, quindi è difficile non avere tutte le informazioni sicuramente dagli strumenti che il digitale ci dà a disposizione. Per me è anche importante, perché cerchiamo di non fare una comunicazione classica cartacea, che quindi abbia anche un impatto ambientale di rilievo. cerchiamo di spingere tutto a livello web e abbiamo poi una policy di compensazione di quelle che sono le emissioni prodotte dai nostri server, dai nostri siti attraverso la partnership con Trination, e quindi abbiamo un web zero system sul nostro sito applicato, modalità per cui in teoria tutto quello che andiamo a fare è compensato. Poi è ovvio che sono sempre un po' delle dichiarazioni che lasciano il tempo che trovo, però poniamo attenzione anche da questo punto di vista, ecco. Perciò l'aspetto web è sicuramente fondamentale per essere informati, aggiornati su tutte le novità. Questa edizione del Festival Cinema e Ambiente Avezzano dal 13 al 21 giugno 2022. Un saluto e un ringraziamento al direttore artistico Paolo Santamaria. A presto! Sono io che ringrazio voi e spero di vedervi, e grazie. Tutta Scena Cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte, il giovedì alle ore 14. Tutte le informazioni, i podcast delle interviste e l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.